Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Mai si poteva essere più puntuali, sono le 21 spaccate in questo istante. Buonasera a tutti, io sono Flavio Bilato, con me c'è Maurizio Calzavara. Buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera ai nostri ascoltatori. Ecco, questa è la martedì sera con Blu Radio Sera per l'appunto, appuntamento live anche in questo martedì, Maurizio. Sì, martedì 11 settembre, come hai detto tu, svizzeralmente parlando, proprio alle 21 esatte spaccate. Benissimo, che ormai non sono più così spaccate, è già passato un minuto, quindi dobbiamo fare in fretta perché ce ne sono tante cose da dire in questa serata. Un gruppo che è venuto già a trovarci qualche tempo fa, esattamente era freddo, sì, era febbraio, era dicembre, rettifico, era la dicembre. Memoria storica di Maurizio comincia a battere qualche colpo. Ecco, comunque diamo il benvenuto, signore e signori. Sono con noi One Man Pierre, eccoli qua. Buonasera ragazzi. Buonasera. Ciao. Allora, buonasera. Tutto a posto? Tutto a posto, grazie. Fatto buon viaggio? Fatto buonissimo questi viaggio. 20 km vi hanno pesato particolarmente? Macchina col nostro buon bassista Davide che sì. Ha guidato con prudenza e ci ha portato sani e salvi qui. Ha rispettato sera. Tutti quei limiti che ci sono, sì, in chiaro, quella chiaro. Strada statale Valsugana. Certo, che, certo. Vabbè, ormai diciamo che le fanno tutte per riuscire a farsi pagare qualche multina in più. Comunque, vabbè, non ci riusciranno mai. Con Davide non ci riusciranno. Va bene. Allora, One Man Pierre, abbiamo già sentito la voce di Pierre, abbiamo già sentito alcuni riferimenti a Davide, ma con noi ci sono anche Charlie e Henry, eccoli qua. Ciao. Buonasera ragazzi. Ciao a tutti. Allora, strumentati e tutto? Sì, certo. Direi che siamo a posto, per cui possiamo proclamare l'inizio della serata live. Allora, One Man Pierre, qualche tempo fa, appunto, ricordavamo a dicembre dell'anno scorso, eravate venuti per presentarci Storie di vite in affitto, quel disco con quelle tracce molto molto forti, rasenti il punk, no? se non ricordo male, ascoltavo con piacere anche quella serata, seppur non ero presente in carne ed ossa negli studi. Devo farvi comunque i complimenti. Grazie. Non ve li ho fatti in quel momento lì perché non avevo il telefono sotto mano, altrimenti benissimo. Poi vedo che comunque è uscito anche un vostro disco che state portando in giro, Pillole cantabaristiche anticrisi, che è un titolo veramente particolare. Vorremmo anche capire il perché di questo titolo, Pier. Sei tu il colpevole? Sì, sono io. O ti ha aiutato qualcuno? No, avanti. Mi prendo tutte le responsabilità, sì, di questo titolo. Queste pillole praticamente. Di queste pillole. No, una vera motivazione non c'è. Avevamo finito le copie di Storie di vita in affitto. Semplicemente. E soprattutto anche del primo disco, che era Il Folle, il Cantabarista ed altre creature. Mm-hmm. Abbiamo pensato di raccogliere delle pillole dell'uno e dell'altro disco in questo. Sì. E in una confezione molto economica, molto bella. Vedo. Cioè, io perlomeno non so se ho il demo o già la versione definitiva. Quindi diciamo che casereccia. Assolutamente, diciamo contro ogni tentazione da un punto di vista di copertina, anche perché si parla di pillole, si sa che è meglio starci lontani dai medicinali, però invece diciamo che in questa serata cerchiamo di fare di tutto affinché si possa promuovere la musica di One Man Pierre. Speriamo, possiamo definirlo un grettistizio, una raccolta a vostra conoscenza, così, una raccolta per modo di dire. Sì, no, abbiamo appunto cercato di raccogliere quelli che noi, per noi erano i brani più significativi dei primi due dischi, e li abbiamo raccolti qui in un unico CD, insomma. Cioè, già vuol dire che avete già una bella predisposizione. Dopo due dischi fate già una raccolta. Non è il motivo è molto semplice, perché avevamo finito le copie e non va bene, dell'altro. Vuol dire che avete vedute. È positivo anche molto, perché i fans, quando ci sono, bisogna accontentarli. Appunto, no? Per cui certo. Non si può mai dire sono finite le copie. E no, che si va di riassunto. Purtroppo l'ho già detto. Ecco. Non posso tornare indietro. Va bene, dai, allora vediamo di ritornare, di cominciare a masterizzare un po' di cose, sempre in via legale, voglio dire. Certo, quindi. Certo. Benissimo. Allora, comunque non siamo qui a parlare solo di pillole cantabaristiche anticrisi, parleremo anche di altri argomenti all'interno di questa trasmissione, anche perché ci aspettano delle sorprese. Certo. Forse, probabilmente, neanche noi sappiamo cosa succederà in questa serata. No. Comunque, vabbè. Una cosa è certa, che per cominciare a parlare del disco è necessario ascoltarne anche qualche traccia. Volentieri. E quindi, perché non dare il via con la prima canzone? Si intitola Habitat e ce l'ascoltiamo all'interno di Blu Radio Sera. Avrai bisogno di un punch caldo, che ormai il freddo non lo sento più. Tu mi guardi e mi dici che sono spavaldo, ma il mio freddo sei tu. Adattarsi è difficile, adattarsi è impossibile. È la notte che scende lontana da qui, lascia l'ultimo ballo per me. Tu come sempre fai finta di niente e mi lasci ballare con chissà chi. Adattarsi è difficile, adattarsi è impossibile. Con te che non sei il mio habitat, con te che non sei il mio habitat, non sei nelle mie corde e meno ti canto più divento forte. Con te ho imparato l'arte dell'incoscienza, che a ragionare troppo già ci pensi tu. Ciò che rende artista è la pazienza. Scorrono le ere, ma non cambi tu. Fin dai tempi più remoti, ai quotidiani è difficile, adattarsi è impossibile. Con te che non sei il mio habitat, con te che non sei il mio habitat, con te che non sei nelle mie corde e meno ti canto più divento forte. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. One Man Pierre in questa serata Blu Radio Sera, ancora un saluto da parte di Flavio e Maurizio, fino alle 22.30, serata live con anche ospiti a sorpresa, però già diciamo che all'interno del nostro sito internet avevamo anche un po' anticipato quella che sarebbe stata la serata di questa sera, quindi io non vi dico ancora nulla, però vi invito a guardare nel nostro sito mentre state ascoltando la radio, sicuramente in versione streaming, quindi bluradioveneto.it, nella pagina riservata One Man Pierre potete vedere anche di cosa parleremo in questa serata. Allora, i ragazzi ci sono, siete in quattro, possiamo confermarlo, benissimo, eccoli qua, quindi Pierre, Alessandro, Charlie, poi ancora Enrico, Harry Potter, ho letto così, anche se la somiglianza mi sembra molto vaga o no, nulla, non c'è proprio, no, volevo trovare un qualcosa, ma ho detto fino alla fine magari qualcosa, invece proprio non c'è nulla, forse solo la bacchetta magica, eccolo, può darsi. Ecco, visto che sei anche il batterista della band, benissimo, e poi c'è Davide, il bassista. Parla poco Davide, parla poco, ogni tanto dici ci sono. Va bene? Ci sono. Okay. Bene, perfetto. Allora, ma lui è già impegnato a fare l'uomo immagine durante sì. I concerti. Bene, bene. A poco lavoro allora in questa serata. Benissimo, perché di immagini ce ne sarà. Ah, no, a proposito di immagini, a parte che devo dire ancora agli ascoltatori che questa trasmissione è registrata così come viene, e poi all'interno dei nostri archivi sonori per farsela propria, diciamo così, i fans di One Man Pierre possono avere un'esclusiva live in versione acustica nei nostri studi a Blu Radio Veneto, e poi naturalmente, visto che c'è l'uomo immagine, Maurizio, scatta qualche foto in più. Sì, ne ho già fatto qualcuno, ecco, ne farò altre perché dobbiamo proprio immortalare l'uomo immagine. Sì, certo, ma non fargli tanto male. Mi raccomando. Allora, torniamo a parlare della musica One Man Pierre. Abbiamo ascoltato questo pezzo, tanto per capire di che musica stiamo parlando. Si intitola Habitat, parla di una persona disadattata, questo Habitat. Sì, dai, possiamo anche definirlo. No, non hai riferito a nessuno qua dentro. No, assolutamente. Dei quattro, anche chi l'ha scritta. Indicano sempre il bassista. Oltre uomo immagine, anche capro espiatorio. Tutte le colpe della band. Vabbè, no, comunque Habitat, sì. Possiamo definire, sì, dai, come hai detto tu, una persona disadattata che probabilmente non trova il suo habitat naturale. Ma musicalmente non mi sembrava molto disadattato, perché c'era una commistione, non so Flavio se sei d'accordo, sì, tra il punk e la musica popolare, c'è la fisarmonica. Sì, c'è la fisarmonica, infatti su quel disco l'abbiamo usata parecchio. E abbiamo più che altro abbiamo provato tanti strumenti per registrare quelle parti, però alla fine ci è sembrato lo strumento più adeguato, sì. Più adeguato. Sì, la fisarmonica, che diciamo ultimamente la stanno usando sempre più gruppi, sì, infatti, un po' di tutti i generi musicali, certo. A parte che secondo me sta tornando innanzitutto molto la musica acustica e forse anche la musica popolare, magari riarrangiata in varie chiavi. Perché in piena crisi bisogna utilizzare meno l'energia elettrica e far propri anche tutti quelli che sono gli strumenti. Purtroppo per radio non possiamo ancora farlo, però diciamo ai nostri ascoltatori che questa serata, quando suonano, loro suonano rigorosamente in versione acustica. Certo. A proposito di musica con la fisarmonica, so Flavio se sei d'accordo, sì. I famosi Pogues. I Pogues, sì. Gruppo con o senza? Con lui, sì. Sì, quello, sì. Quello un po', assolutamente lui era, mm-hmm. Non era proprio decisamente fermo, in alcuni momenti si muoveva ritmicamente e anche oltre. Usavano molto la musica, la fisarmonica, la usavano però in chiave punk, tra il folk e il punk. L'altra cosa, anche attualmente mi sembra che i Gogol Bordello stiano facendo la stessa impronta, sì. Sono dei pazzi anche loro. Certo, abbastanza. Basta vedere solo le fotografie per farsi scattare l'adrenalina, poi però, insomma, per il resto. Ho avuto la fortuna di vederli dal vivo. Come sono dal vivo, Pierre? Un gran concerto. Al di là dell'elemento della visione della pazzia, ma musicalmente sono bravi. Molto bravi. Finalmente è giunta l'ora di mettere in soffitta l'idea di abbinare la fisarmonica solo ed esclusivamente per il liscio. Sì, okay, sì, benissimo. Sì, sì. A posto. Allora, ma penso, sì. Forse è una cosa che che dovrebbe essere, cioè, che doveva essere superata da tanto tempo. Questa, il fatto di usare la fisarmonica solo per il liscio, credo. Anche perché magari per il liscio utilizzano solamente la tastiera di destra, diciamo, sì, lasciando la parte elettronica tutto il resto. Invece qua si usa proprio destra e sinistra con, sì, tutti quei tastini incasinati che non ho mai capito nulla. No. Però insomma è uno strumento davvero sì, bello ascoltarlo, sì, sì, sì, è bello. Bene, allora, come dicevamo all'inizio di trasmissione, non si parla solamente dei lavori di One Man Pierre, ma anche di tante altre cose. Cominciamo con quella che potrebbe essere la cover che ci proponete in questa serata. Sì, è una cover dei Joy Division, però riletta in chiave reggae. Bene, bello questo, è molto interessante rileggere un pezzo storico di Joy Division in chiave reggae. Già essere coraggiosi, perché i fan di Joy Division non so quale reazione possono avere. Infatti ne abbiamo la prova ad ogni singolo concerto dove c'è un nostro carissimo amico che saluto, che non so se ci sta ascoltando, comunque si chiama Borny, fanatico di Joy Division, e ogni volta quando le proponiamo dal vivo lui scappa, si inventa qualcosa per... Non è molto d'accordo. Scusate, devo andare un attimo in bagno. No, comunque va bene, noi restiamo qua e vogliamo ascoltare, tanto per farci un nostro, diciamo, giudizio proprio di quella che è la canzone che andiamo ad ascoltare. Atmosphere, comunque. Atmosphere in versione reggae. Reggae. Eccola qua. One Man Pierre, Blu Radio Veneto. Walk away. In Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ancora buonasera a tutti, benvenuti nelle nostre frequenze. Questa è Blu Radio Veneto, all'interno di Blu Radio Sera, nella parte riservata al live in versione acustica. In questa sera abbiamo One Man Pierre, sono venuti per presentarci i pezzi che conoscevamo con qualche sorpresa in più. E quella che ci siamo ascoltati ora in versione live è un pezzo che si diceva prima essere parte della discografia, seppur breve, di Joy Division, si intitola Atmosphere ed era nella versione reggae, e quindi vediamo se qualche altro fan dei Joy Division ha girato canale, stazione. Speriamo di no, perché insomma queste cose qua, pur originali, vanno sempre ascoltate, no? Tanto non l'avete fatto uguale. Com'è? E quindi no, non l'avete fatto uguale nel senso. Quindi reggata e ciò vuol dire che spazio all'immaginazione. Cioè, all'inizio avevamo cercato di farla il più simile possibile, anche se, se comunque farla identica a quella che era la versione di Joy Division per la formazione che abbiamo noi era impossibile, forse un po' difficile. Esattamente. E per cui la facevamo cercando di emularla il più possibile, però poi Enrico si annoiava a morte. Forse diceva è una nenia infernale questo pezzo. Io anche perché mi sentivo un po' toccato nel profondo, in quanto i Joy Division per me sono non prosciutta. Perché fanno parte un po' del post-punk, no? Sono cresciuti subito dopo il punk, sono arrivati loro e anche tanti altri gruppi dall'Inghilterra. Però noi sappiamo, perché naturalmente abbiamo già ascoltato la musica di One Man Pierre e anche la trasmissione dello scorso dicembre, che c'è chi gli andava un po' stretta questa versione reggae, questo ritmo in levare della chitarra, stava un po' stretto all'Hendrixiano di turno, in questo caso Alessandro, ovvero Charlie. Puoi dircelo? Come hai inghiottito la pillola in questo caso? Sinceramente mi diverto molto di più adesso. Ti diverti? No, no. Nel senso, questa chitarra che deve stare sempre composta e segnare il ritmo. No, secondo me una buona chitarra deve essere sempre funzionale al pezzo. Va bene il virtuosismo quando hai lo spazio giusto. Cioè, a me, contrariamente a tanti altri, danno molto fastidio i chitarristi che fanno virtuosismi, che fanno a Steve A praticamente. No, beh, insomma. No, visto, sai, mi in mente lui perché suona fra pochi giorni qua a Padova. Lui è un'istituzione, intoccabile. Però qualcuno dice crogiola troppo in se stesso. Qualcuno dice, hai detto crogiola proprio all'inglese? All'inglese, proprio. Caso. Non si può dire niente. Steve A per te è un intoccabile. È intoccabile. Diciamo un po' tanti chitarristi anche un po' minori, però nel tentativo di emulare gente come Steve Vai, Satriani, eccetera, eccetera, che pensano solamente al virtuosismo fino a se stesso, senza perdendo completamente quello che è la funzione della canzone. E preferisco molto di più chitarristi o comunque musicisti in generale più essenziali, ma che diano il giusto apporto alla musica, al pezzo. Ma sì. Se posso dire una cosa, tu l'hai letto molto bene la versione reggae, perché tanto sei partito te, l'input l'hai dato te, il bassista ti ha seguito. Il bassista è molto importante in questo pezzo, anche se non fa finta di non essere importante, ma è molto importante. Qui dice al microfono spento, ma dice erano solo due note. Però non è vero che erano solo due note, è la base portante del pezzo. Il basso. Comunque è l'unico che ha una cultura reggae vera e propria all'interno del gruppo, è lui. Ho capito. Per quello trascina tutti gli altri. Però Charlie ha fatto un bellissimo inizio. Cioè, non aveva la chitarra elettrica, avevi la chitarra acustica, ma come avessi la chitarra elettrica? Per me è Charlie. È come Steve Vai, vabbè. Vabbè, ricordatelo la prossima volta. Questo che hai appena detto. Anche Harry Potter, però, il nostro Harry Potter qui presente, ha cercato di muoversi con le mani, più che altro non potevi fare. Sì, che ci dispiace molto, non è venuto neanche con un pezzettino di qualcosa da su cui sfogarsi, diciamo. Ero troppo in ritardo. Vabbè, non importa. Comunque, diciamo, anzi, tra poco vi esprimerete anche in versione live, quindi se volete andare a vedere la massima espressione di One Man Pierre, dove siete prossimamente? La prossima volta suoniamo a San Pietro in Gul, 22 di settembre, però se mi inoltro troppo in questo discorso potrei rovinare la sorpresa. Potremmo rovinare, vabbè, allora non la diciamo. Comunque, per il momento ricordatevi, San Pietro in Gul, in quale locale? Al Grifone Bar. Al Grifone Bar, benissimo. Poi appunto approfondiremo anche il discorso. E poi il 30 suoniamo invece ad Abbazia Pisani, che è Villa del Conte, praticamente a Ricky's Pub. Benissimo, allora due appuntamenti in provincia di Padova. Ci ascoltiamo un altro pezzo del disco, così da prendere fiato, sempre tratto da questa compilation, la definisco così, di pillole cantabaristiche anticrisi. Devo leggerlo ogni volta il titolo. No, ma in verità abbiamo già fatto questo The Best, perché ci stiamo sciogliendo. Sì. No, sto scherzando. Comunque. Sì, il frigo non ha tenuto. Esatto. Quindi, ecco, bene. Allora ci ascoltiamo questa Lungo strade diverse a Blu Radio Veneto, i One Man Pierre. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Da solo specchiati nel muro, attendi il tuo treno in un'ombra cinese, la stazione sì, la troverai là, tra un disco dei Beatles, un poster sbiadito, il sorriso di lei, invece chissà, immaginalo già nella prossima città. In salita, respiro pesante, se l'aria ti manca cerca la più distante, la valigia vuota ma la riempirai al tuo ritorno assieme a lei. Lungo strade diverse, incrocia i binari, riscopri storie perse. Vai ben oltre a ciò che ti interessa, e scusi il prossimo film a che ora passa. Cerca il tuo mostro in un mulino a vento, il tuo cuore sicuro si riposerà a una teca di vetro e l'aldilà, il sorriso di lei, invece chissà, ti starà già aspettando nella prossima città. Ferita riaperta, il sapore fresco di una nuova scoperta, e se mai mi ritroverai, e se mai ti ritroverò, e se mai, e se mai, e se mai, e se mai, lungo Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Abbiamo ascoltato il pezzo intitolato Lungo strade diverse, a proporcelo One Man Pierre, queste pillole cantabaristiche anticrisi, un titolo davvero curioso che raggruppa alcuni pezzi di un lavoro datato 2010, Il Folle, Il Cantabarista ed altre creature, e un album invece uscito nel 2011 che si intitola Storie di vite in affitto, e noi abbiamo affittato per questa serata One Man Pierre, che sono con noi per non guardatevi ragazzi, allora dico agli ascoltatori, sono qua con noi e adesso stavano già parlando di soldi, affitto tra virgolette, voglio dire, ok, noi siamo qui per promulgare la musica, non per ecco, per cachet, ecco, diciamo in questo caso. Allora, Lungo strade diverse, chi ha scritto il pezzo? Pierre, certo, ovviamente. Allora, queste strade diverse a cosa erano riferite? Forse a delle scelte da fare. Certo, so che tu lasci molto la libera interpretazione anche, sì, del pubblico, quello... di quelle che sono le tue storie, perché non vuoi troppo dire no, quella riguarda me, no, una no, storia personale, non chiedetemi troppo, no, ognuno tira, cioè, le proprie... quello che mi piace pensare è questo, cioè che ognuno, non so se è una cosa troppo ambiziosa, però quello che mi piace pensare è che da queste canzoni, da queste frasi, ognuno, sì, magari possa trovare la sua interpretazione, sì, personale, la propria qua, dimensione musicale all'interno di una canzone di One Man Pierre. Sì, possa quantomeno riconoscersi. Cerco probabilmente di scrivere cose semplici anche per questo motivo. E questo uso dell'armonica, Pier, che chiaramente il viaggio è collegato all'armonica, tutti i viaggiatori, se parla di, io posso riferirmi a Woody Guthrie, quindi viaggiatori per l'eccellenza negli Stati Uniti, quindi l'armonica dà un certo senso del viaggio, se può. Sì, questo senza dubbio. E come hai detto tu prima, anche in magari un senso americano, sì, molto decisamente americano, non, sì, americano, però no, sì, poteva ricordare, alla può fine, ricordare, sì, esattamente. Ecco, diciamo che l'armonica era viaggio, la fisarmonica un po' meno, anche perché sì, allargando il mantice, beh, si dai, rischia l'armonica di... ci sta tranquillamente in tasca, certo, la fisarmonica, certo, quindi aspettiamo anche gli stop e si può anche suonare l'armonica. E poi sì, anche One Man Pierre, che ricorda un po' One Man Band, sì, insomma, l'armonica, sì, può, sì, sì, può, sì, rientrare in anche, tutto se, anche se non sei un One, no, Man Band, anche se il progetto, i tuoi poi colleghi già pronti a saltarmi addosso, a saltarti addosso. Vabbè, lo fate dopo, mi raccomando. Ecco, d'accordo. Comunque, in Lungo strade diverse, oltre all'armonica c'è una presenza di una voce femminile, sì, sì. Stasera non la vedo, ma no normalmente. No, neanche normalmente, sia su quel disco che era Il Folle, Il Cantabarista ed altre creature, sia su Storie di vite in affitto ci sono delle voci femminili. Su questo disco c'è solo questa canzone che, no, anche Miss Brano ha delle parti di voce femminile ed è una ragazza di Cittadella che si chiama Federica che ha prestato la voce per questo disco. Invece sul disco successivo, appunto Storie di vite in affitto, ha cantato Lucia, che è la ragazza di Charlie. Bene. Quindi tutti in famiglia. Sì, perfetto. Che anche lei comunque cantava, aveva un gruppo, per cui comunque tutto torna, tutto aiuta. Lei canta bene e noi siamo stati contenti di poterla avere nel nostro disco, insomma. Benissimo, sì, certo. Avete fatto benissimo. Un'altra cosa che mi dovete dire, io ho guardato, non dovevo guardarlo forse, il video su YouTube di questa canzone. Di Lungo strade diverse. Lungo strade diverse. Allora, so che è partito da una concezione del non sappiamo cosa fare, però intanto facciamolo. Sì, no? Sì. E da questo è nata una camera fissa. Sì, una camera fissa. E il vostro divertimento. Sì. In quel caso là eravate in due. Sì, allora, no? Perché all'inizio, come avevamo già spiegato anche, sì, in dicembre, il progetto era partito in due, quindi chitarra e batteria, sì. E in quel periodo lo eravamo ancora stile ancora White Stripes, solo che non c'era la donna, è lui la donna, no? Infatti per i concerti sì. Lui si metteva una parrucca finta, sì. E suonava così, no scherzo. Comunque sì, eravamo in due e poi è arrivato Davide e successivamente Charlie, però quando è stato fatto quel video là, sì. Eravamo solamente io e Enrico. Spieghiamo un attimino anche nel video, magari dopo così gli ascoltatori vanno a vederselo con più interesse. In verità quel giorno che abbiamo girato quel semplice video, eravamo più che altro andati a fare una serie di fotografie da mettere nei manifesti. E così. Avevate comunque bevuto poco? No, in verità niente. Zero. Anche perché erano le 3 di pomeriggio probabilmente. Sì. Sono andato anche a prelevare Enrico dal lavoro, per cui insomma, a meno che lui non abbia bevuto anche al lavoro, questo no. Non lo so, non sono affari miei. Non... Ecco, adesso non svegliamo altre cose, però Enrico ci deve dire una cosa: dove ha comprato quei boxer che sono così fantastici. Allora andate a vedere su YouTube e quindi chiamate semplicemente. No, però dai, lungo strade diverse. La copiata giacca con boxer o pantaloncini corti e cravattina ci stava. No, no, proprio gli dà un tono, è un vero peccato anzi che non se le sia portate dietro per questa serata. Averlo saputo che c'erano le foto. Vabbè, allora spazio ancora alla musica di One Man Pierre, questa volta cosa gira sul nostro piatto? Cosa gira? No, qualcosa di live. Certo. Gira il live di Salutami Ancora. Un bel pezzo questo, invito quindi l'ascolto forzato a tutti gli ascoltatori di Blu Radio Veneto. What? Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Salutami ancora, si intitola così il pezzo cantato in versione acustica presso i nostri studi di Blu Radio Veneto da One Man Pierre. Allora, salutami ancora, un punk melodico e canzonatorio dove fa breccia tra tutti la faccia di cretino di qualcuno. Effettivamente sì. E poi c'è anche tutto un contorno per chi lo ascolterà anche, o per chi ha avuto già il piacere di ascoltarlo nella versione da disco, anche la consueta fisarmonica, sì, sì, un po' festosa. Questa sì, è abbastanza festosa come fisarmonica, scritta, sì, da Harry Potter. Mm-hmm. Lo fa intendere, l'ho scritta io. Ovvio. Certo. Perché sì, tu Flavio non l'hai visto perché eri davanti al mixer, ma Harry Potter si muoveva ritmicamente, non aveva la batteria stasera, ma come se l'avesse in mano, sì, vedo, sì, come avessi le bacchette praticamente, era così. Devo fare qualcosa per sfogarmi. No, ma poi chi è batterista o a chi piace il ritmo, di solito è più evidente quando uno suona la batteria, perché si allarga un po' dappertutto, no? Invece magari la chitarra rimane io stretto. In camera, in macchina, suono, sì, molto spesso la batteria quando anche se non sono batterista. Benissimo, quindi tanto per tenere il ritmo. Allora, salutami ancora, da cosa è nata? Come tutte le altre canzoni, in verità non ha un vero e proprio punto di partenza. Più che altro parto con una frase e mi lascio andare da quello che mi viene all'istante, probabilmente. Appunto per il discorso che... cioè, chiaramente cercando di trovare un filo logico tra le parti, però comunque... vedo di lasciare molta interpretazione a chi l'ascolta. Benissimo. È un pezzo molto accattivante, come giustamente è stato definito da Flavio, e dal suo peso l'essere accattivante, cioè trascina anche gli altri. Dal vivo sicuramente questo è un pezzo trascinante. Sì, dici? Questo senza dubbio è uno dei pezzi più movimentati. E Charlie ti ha solo fatto, adesso ne ha fatto uno piccolino con l'acustica adesso, in quel momento, in questo pezzo. Con l'elettrica cosa fa? No, dal vivo comunque anche lui usa sempre l'acustica, solo che appunto è per fare ad esempio questi o altri pezzi usa il distorsore. Usa il distorsore. Sì, per cui comunque chiama il suono elettrico. Chiama il suono elettrico, cioè per aumentare il... appesantire il bustile, sì, suono, sì, praticamente. Sì, sì, chiaramente dipende se ci muoviamo in acustico, quindi in trio come questa sera, oppure se ci muoviamo anche con Harry, perché chiaramente varia a seconda dei posti. Certo, certo, indubbiamente. Tra altre cose, visto che abbiamo parlato prima di video, è giusto ricordare che c'è anche il video con te e con tanto di fracca e bicicletta, certo, vero Pier? Certo, sì. Ecco, bene. E quei capelli lunghi. E quei capelli lunghi, effettivamente. Poi mi stavo chiedendo, ma è passato il tosatore? No? Sì, è passato il tosatore e più che altro mi ero stancato. Bene, quindi motivo anche per andare a vedere questo video, davvero, davvero divertente pure questo, con questo tuo giro in bicicletta infinito a salutare tutti, compresi quelli che ti guardano un po' in maniera un po' in maniera strana, diciamo, e così ci fermiamo però, là. Però alla fine andare a trovare Davide ed Henry seduti a un, sì, tavolo di un bar a bere un caffè e leggere un giornale, insomma. Benissimo, allora come si ricordava prima, ci sono delle sorprese. Vogliamo già cominciare con quella che è la prima, perché One Man Pierre ha avuto il piacere, la fortuna e quante altre cose si vogliono di suonare e cantare assieme a un artista emergente, si può dire così. Sì, super emergente. Nel senso che emerge sempre, no? Quindi riemerge, e quindi in questo caso stiamo parlando di Roberto Fricantoni, che tutti ricordano come Schiantos, con tutti quei pezzi riservati a quella demenzialità rock che era viva in quel periodo. E tu, a distanza di tempo, quindi stiamo parlando del 1977 o giù, sì, di lì, più o meno, no? 75, sì, ecco, a distanza di tempo hai contattato Fricantoni. Yes. Allora l'hai contattato e gli hai chiesto di... gli ho proposto di fare questa collaborazione, In verità il pezzo è pronto già da aprile, poi chiaramente lui ha molti impegni con i suoi progetti, per cui è sempre un po' difficile riuscire a collaborare in tempi sì, brevi, però alla fine ce l'abbiamo fatta e sono contento, perché comunque lui è una persona splendida e molto, molto disponibile. E io e Enrico abbiamo avuto la fortuna di andare a Bologna a registrare, cioè tutto il resto del pezzo è stato registrato qui, gli strumenti e la voce anche mia. E siamo andati a Bologna con lui a registrare le sue parti vocali. Bene, allora adesso ci ascoltiamo questo pezzo che si chiama Disorientato e Assente. Disorientato e Assente, poi torniamo a parlare insieme qui a Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Allora, disorientato e assente il titolo di questo pezzo di One Man Pierre, cantato insieme a Roberto Fricantoni, che è considerato uno degli autori più stimolanti del movimento artistico e culturale post 77. E One Man Pierre, sapete chi abbiamo in linea in questo momento? Certo. Certo. Allora diamo il benvenuto a Roberto Fricantoni. Buonasera Roberto. Buonasera a voi, bentrovati, ciao a tutti. Ciao Roberto. Allora, chiediamo subito a Roberto, disorientato e assente, come sì. Hai accolto questa richiesta di One Man Pierre di cantare questa canzone che, diciamo, ha comunque il ritmo di quello che tu abitualmente fai? Ma scusa, sì. Perdonami, Juan Pier chi è? Non conosco. No, allora non, è un canzoni sì, sì, di è questo un, tipo. Non, forse abbiamo non chiamato la persona. No, allora, no, Juan Pier è un gruppo di Cittadella capitanato da un certo Pierpaolo. Non so se te lo ricordi. Sì. Nei tuoi vari impegni artistici, sì, ma, sì. Ecco, sì. Lo vedi come sono perspicace. E acuto, sono riuscito a farti presentare la band. Non te ne sei accorto, mai presentato la band, meglio di così non si poteva fare. Grazie, perfetto. Grazie Roberto. No, allora ragguagliami, scusami, allora questo gruppo chiamato One Pierre Band cosa ha fatto? Ha fatto un disco, un CD? Sì, ha fatto un pezzo e loro vantano di averlo fatto con te. Addirittura? Sì, addirittura, un certo addirittura. Disorientato assente. Ti sento... Io smentisco tutto, sì. Ma in effetti nulla, mi è stata carpita con l'inganno, sì. quella voce mi è stata registrata mia insaputa, io sapete soffro di sonnambulismo e quindi, quindi come tutti sanno i sonnambuli non vanno mai svegliati bruscamente, no. Per cui loro... facendomi il solletico, la tortura del solletico della piuma, alla piuma del solletico sotto le ascelle, soprattutto e sotto la pianta dei piedi, dove io sono sensibilissimo, sì. Mi hanno costretto attraverso queste torture inenarrabili a produrre questa seconda voce, e io l'ho fatta in catalessi seguendo la traccia della prima voce, sì. quindi io non ho alcuna responsabilità no, in tutto questo. Ma in effetti scusaci Roberto, anzi se ti abbiamo chiamato, però ti sentiamo effettivamente disorientato e assente disorientato in questo momento. Assente, molto bene, hai colto il senso della cosa. Ho colto, perfetto, coltivatore diretto, sì. hai raccolto a piene mani il senso della cosa, bravissimo, perché in effetti io ero disorientato e confuso e disorientato, e mi sono ritrovato mio malgrado a collaborare con One Man Pierre. Scherzo, lo conosco da anni anche la mamma e il papà, che sono disperati, la mamma e il papà di One Pierre Band, e più volte mi hanno detto: senti, fai qualcosa per questo figlio che ha la grande passione della musica, gli piace il rock, gli piace il folk, gli piace, infatti a tempo perso poi la sua passione segreta è suonare Romagna Mia, arrangiare i brani folk e nel suo garage insonorizzato, più che per non sì. disturbare i vicini, per non far sapere a nessuno queste sue passioni indicibili. Sì. Senti Roberto, sì. Prima di accettare la collaborazione, hai chiesto a One Man Pierre se aveva letto il tuo manuale per giovani artisti, cioè, il tuo vademecum? Ho dovuto sì. leggerlo perché me l'ha regalato lui. Sì. Sì, io gliel'ho imposto tanti anni fa la lettura. Sì. E lo trovi cresciuto detto, guarda, da quel momento? Sì, secondo me lui è molto peggiorato, sì. È molto cresciuto in peggio, e quindi in quanto cattivo maestro cosa mi ha molto gratificato. Devo dire che l'ho costretto a leggerlo per il suo male, nel senso che per evitare di farsi troppo male gli ho detto: guarda, leggi e poi dimentica, tutto quello che leggerai è tutto quello da evitare, così come l'esempio degli Schiantos, 36 anni sempre sulla cresta dell'onta, cioè sulla cresta dell'insuccesso. Tutto quello che hanno fatto gli Schiantos è da evitare se tu vuoi avere un minimo di riscontro, e gliel'ho fatto leggere questo libro perché speravo di colmare un eccesso di cultura che lui ha, ma soprattutto seguivo la passione così che mi hanno indicato i genitori, la mamma Roberta e il papà che ancora si dispera e dice: ma perché mio figlio non ha fatto l'impiegato di banca, un posto fisso regolarmente, che oggi è oro, veramente il sogno di tutti i ragazzi, degli adolescenti e dei giovani. La cosa rattrista molto chi come me reduce dalla grande utopia, dalla grande stagione dell'utopia degli anni 70, e qui scherzo poco, nel senso che pensavamo che il mondo sarebbe potuto cambiare in meglio, a parte i discorsi della violenza che fu anche eccessiva, perché si pensava di rispondere alla violenza delle istituzioni con la violenza estemporanea e concettuale del movimento antagonista degli studenti, il movimento studentesco, ma non era certo fondato sulla violenza. In realtà era una grande utopia dove si pensava di cambiare il mondo con ingenuità, lo riconosco, con molta ingenuità, ma si pensava che il mondo sarebbe potuto migliorare. Invece oggi i giovani hanno come loro sogno, mentre allora cercavano di trovare il modo di esprimersi e di dare voce ai propri sogni e alle proprie aspirazioni, alle proprie inclinazioni, oggi è già difficile avere un'inclinazione particolare. Oggi una qualsiasi pendenza intesa come inclinazione sarebbe auspicabile. Invece il mondo in cui si ritrovano i giovani, anche forse per colpa nostra che gli abbiamo lasciato questa pessima eredità, è un mondo privo di sogni, dove il sogno più realistico è quello di trovare un posto fisso, un posto di lavoro indeterminato, a tempo indeterminato, con una paga mensile garantita. E invece spesso il rischio dell'avventura, di appagare una passione, vale la pena di investire una vita su questo, insomma vale la pena di essere quindi inseguita e perseguita, ma non si può dar torto neppure ai giovani che invece cercano di piazzarsi e sono contenti di questo. Quindi un mondo strano, un mondo dove One Pierre Band è comunque coraggioso a tentare la propria strada e la propria avventura artistica, insomma, così come tutti i giovani musicisti e artisti che ci provano, secondo me sono degni di encomio e di merito, insomma, perché a parte le cover, voglio dire, le cover io credo possono servire per imparare e per acquisire padronanza sugli strumenti e per allargare l'area della propria tecnica e consapevolezza, imparando dagli altri. Roberto, poi bisogna fare delle cose originali, e One Pierre Band ce la fa, ecco, tutto qua. Sì, e come ti sembra, Roberto, stia andando la musica italiana, One Pierre a parte? In questo momento la musica italiana sta facendo degli sforzi, cercando di conquistare i pochissimi spazi che ci sono. Io personalmente mi rifiuto, e non per partito preso, non per una per un vezzo di antagonismo fine a se stesso, ma mi rifiuto di pensare che l'unica rappresentazione della musica italiana sia data da queste trasmissioni televisive, da questi format televisivi che parlano di musica, e cioè Amici o X Factor, ecco, per dirne le due più grosse. Mm-hmm. Io con gli Esiantos ho fatto una mini tournée 2 anni fa in Sardegna. Mm. E nelle uniche zone di percorse dalle autostrade, diciamo così, dalle strade molto grandi in Sardegna non ce ne sono, quelle poche che esistono di autostrade, ci sono delle ottime strade ma di autostrade non ce ne sono quasi, ce n'è una verso il nord se non sbaglio gratuita. E noi ci siamo, abbiamo percorso quella strada per raggiungere località di concerti, ci siamo fermati in stazioni di servizio dove alla cassa di questi esercizi, di questi autogrill, c'erano solo i pieghevoli con i dischi dei vincitori di X Factor e di Amici. Ecco, e allora io mi rifiuto di pensare che la musica italiana dei giovani sia soltanto questa. Certo. Ci sono tantissimi musicisti giovani che cercano di fare concerti con musica proprio originale, come sta facendo nel suo genere One Pier Band, e poi si può discutere sul genere, si possono esprimere giudizi, pareri, eccetera, però il merito di presentare qualcosa di assolutamente originale, che è frutto della propria fantasia, delle proprie voglie musicali, del proprio istinto musicale, è encomiabile, insisto. Quindi penso che la musica italiana viva delle grosse difficoltà, perché gli spazi sono costipatissimi, gli spazi pubblici di grande espansione promozionale sono quelli appena citati per la televisione, poi per il resto c'è internet dove la scommessa è difficilissima. Oppure ci sono gli spazi radiofonici come quello, come il nostro, dove ospitiamo il nostro, sì. Che è anche questo molto raro, quindi onore al merito anche a voi, perché il fatto di ospitare musicisti nuovi che fanno musica originale, ripeto, non cover, non musica di altri rifatta, poi c'è anche la perversione di rifarle il più possibile aderenti agli originali, che è una perversione allucinante se ci pensiamo, perché è come essere entusiasti del copiare con la carta carbone, no? Sì. Copiare con la fotocopiatrice, no? È comoda, no? Rifare i pezzi dei Red Hot Chili Peppers, rifare i pezzi, non lo so, delle Zeppelin, degli U2, no? È molto comoda, sono pezzi già fatti, rifiniti, pensati, ripensati, suonati migliaia di volte, o fare l'ennesima cover band dell'inutile oramai Vasco Rossi. Certo. Basta. Comunque, dire onore al merito, sì. Però adesso basta, dai, passiamo. Passiamo a qualcosa di nuovo. Comunque Roberto, sarai 40 sì. anni a Vasco, di meriti a Vasco Rossi. Comunque sarai d'accordo con noi, Roberto, scusami. Dai, sì, sarai d'accordo con noi che comunque i gruppi, per farsi ascoltare, prima devono proporre qualche cover e poi piazzare là anche qualche brano inedito che poi il pubblico scopre è proprio del gruppo che sta suonando davanti a loro. Sì, certo, questa è una tattica giusta, perché la cover può fare da apristrada. Il triste è quando la cover è la sola ed unica proposta artistica, e questa diventa veramente miserabile come proposta artistica. Non c'è rischio, non c'è azzardo, non c'è voglia di confrontarsi con il nuovo, con una proposta personale, c'è solo voglia di copiare quello che hanno già fatto gli altri, sì. Che è stato sentito e risentito, ma non decine, centinaia, forse migliaia di volte. Per questo che dico basta, perché insomma, certo. Non se ne può più, insomma, voglio dire, sì. e ci sono, io credo, tantissimi giovani musicisti italiani che nel nostro paese cercano faticosamente di proporre delle cose nuove. Sì. Tu Frick l'hai proposto per 35 anni sta roba, l'hai fatta per 35 anni, continui a proporla. Con tanto insuccesso, perché sì, però continui a proporla al di là dell'insuccesso, non è vero che c'è stato tanto insuccesso. Io continuo a proporla, è vero, perché sono recidivo, e perché mi piace provarci e riprovarci, perché penso che prima o poi qualcuno ascolterà, ma però se ci pensiamo bene, sono poi arrivati egli le storie tese. lo so, è vero, questo è vero. Quindi, però sottolineo i 15 anni dopo, no? Sì. Sono arrivati 15 anni dopo, hanno sì. fatto cose più alla moda, riparandosi dietro alla perizia tecnica, al virtuosismo musicale, tanto di cappello per questo, ma l'arte musicale, l'arte in generale, non è fatta solo di tecnica. E questo perché? Perché non hanno letto il Vademecum per i giovani artisti. Esatto. Ne sono sicurissimo. Se avessero letto, avrebbero capito che l'arte sì. è ben oltre il fatto certo. di possedere una tecnica. La tecnica sì. è il mestiere di base, ma poi con la tecnica devi proporre qualcosa sì. che inizia con la maiuscola, cioè di autonomo, di O con la O cubitale, di originale, no? Ascolta, originale. Roberto, no, un'ultima domanda. Sappiamo che tu sei un artista a tutto campo, per cui sei musicista, cantante, poi sei ancora scrittore e anche attore. Com'è impegnata la tua ultima parte di esistenza? Ah, guarda, io in realtà sono persona molto pigra, che si muove solo sulle cose che davvero lo emozionano, che gli interessano. Quindi uomo in pier. Questa fortuna della vita, perché c'è poi chi in arte invece deve fare delle cose per sopravvivenza immediata. A me è stato dato la possibilità di non diventare ricco, ma di essere comunque una persona che sopravvive facendo il proprio lavoro, e quindi ho il lusso di cercare di concentrarmi su quello che mi interessa davvero, e credo che gli artisti dovrebbero far questo. Non mi piacciono gli artisti, e in questo vorrei anche riservare una frecciatina benevola a Lucio Dalla, che per contratto tutti gli anni fanno un disco che non sempre è all'altezza della loro bravura, della loro capacità. Allora un artista che ha raggiunto una certa fama, io credo dovrebbe lavorare solo per l'arte, davvero, solo per dare il meglio al proprio pubblico, e non per fare dischi per contratto. Certi dischi di certi artisti, di cui ho appena fatto il nome, che sono artisti enormi, di una bravura tecnica vocale, parlo di Lucio Dalla, incredibile, forse il migliore, uno tra i migliori cantanti di musica leggera italiana, che però spesso ha fatto dischi per contratto e anche per far lavorare, secondo me, tutta la corte di musicisti che gli stava intorno, ecco, e quindi è stato anche generoso, ma ahimè questo non giova all'arte, perché insomma bisognerebbe che un artista facesse davvero quello che sente nel profondo, insomma, quello che istintivamente sente molto forte, e fosse tutte le volte molto motivato. Bene. Quando invece hai una corte dei miracoli, perdonami, di orchestrali che aspettano che tu faccia il disco per poter lavorare d'estate, ecco che sei compromesso anche per troppa generosità, insomma. Bene, grazie Roberto. Grazie Roberto. Per essere stato con noi, e appunto per divulgare quella che è il messaggio della buona musica, del diffidare delle imitazioni, e per essere stato anche con One Man Pierre per questo pezzo disorientato. A cui auguro il meglio. Grazie Roberto. E faccio i complimenti a voi per il fatto di dare spazio, per aver dato spazio a musicisti originali. Io mi auguro che la vostra radio lo faccia regolarmente, almeno una volta alla settimana. No, tre volte. Tre o quattro volte alla settimana, sì. Frick. Allora siete ancora più grandi di quanto pensassi. E un'altra cosa che ti dico, bravi. Un'altra cosa che ti dico, Roberto, è che One Man Pierre è già la seconda volta che vengono qui. Ah, e non lo sapevi, eh? No, non lo so, no, no, ero all'oscuro, anzi mi scuso per la mia ignoranza, naturalmente faccio finta di non conoscerli, ma so benissimo che ci provano e hanno il merito appunto di fare delle cose partorite dalla loro zucca, insomma, dal loro istinto, dalla loro voglia di fare, dalla loro intelligenza e sensibilità. È tutta farina del loro sacco, ecco. Ok, grazie mille Roberto, grazie ancora, grazie di essere Roberto. Stato con noi e di averci regalato qualche chicca della tua diciamo sapienza artistica e un'altra volta raccomandiamo agli ascoltatori, se trovate ancora qualche copia in giro, magari metteli in ristampa, Roberto, no? Del Vademecum per i giovani artisti. Si prova. Ma non è facile parlare con l'editore, anche perché adesso tutte le dimensioni editoriali sono diventate manageriali, quindi è difficile parlare con questi manager che pensano solo alle cifre, ai numeri e al business. Insomma. Non c'è più la Feltrinelli di una volta. No, non c'è più la sensibilità di un tempo, oggi, certo. Oggi contano soprattutto i conti di cassa, contano soprattutto, se posso dire la mia, insomma, però onore al merito, alla vostra radio per dare spazio a questi exploit, questi lavori del tutto originali. Onore alla vostra radio, la quale farà sentire anche i grandi classici come d'obbligo, come giusto, però anche dare spazio, come fate voi, ai giovani interpreti originali è molto importante, credetevi, è molto più importante di quanto non si pensi, e non voglio star qui a fare della retorica perché non mi è mai piaciuto bene farla, insomma. Grazie, allora, grazie Roberto. Anche dei complimenti, salutaci tutti e ti aspettiamo qua, Roberto, quando vuoi a parlare, il microfono è sempre aperto. Grazie. Bene. Sempre aperto per il Roberto. Molto bene. Grazie ancora. Ciao. Grazie ancora. Da Freak Antoni, un'altra sciocchezza da Freak Antoni. Amici, un abbraccio. Ciao Roberto, ciao. Fantastico. Allora abbiamo fatto una lunga intervista con Freak Antoni. Ecco qua, abbiamo sistemato anche il telefono. Allora ragazzi, non perdiamo più tempo. Mano gli strumenti, un'altra canzone live. Dai, cosa nasce adesso? Perché so che c'è un qualcosa che riguarda, come si spiegava prima, una cover di un gruppo, diciamo così, sconosciuto, del quale voi volete appunto... Vogliamo omaggiarli. Volete omaggiarli per avervi praticamente regalato il pezzo, perché tanto loro non si difila più nessuno. No? Beh, non so neanche quanto, forse se li filassero quando all'epoca. No, perché se voi mi dite che si chiamano Kina, no, a me dice qualcosa solo Kina Martini, dopo per il resto. Ecco. Benissimo, comunque, allora... il pezzo si chiama Ogni Giorno. Eccole qua. Percorsi a migliaia, per strade assolate, senza meta e senza casa. Solo la musica insistente ti porti dietro, solo il grido disperato ti muore dentro. Ogni giorno è una ti perdi un po' di più nel tuo vagare, senza più parole, e a passi lenti per città deserte cerchi confusi volti di pietra, di memorie le strade, senza meta e senza vita. Ogni giorno, senza vita. Ogni giorno, senza vita. Ogni giorno, senza vita. Ogni giorno. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Abbiamo ascoltato ogni giorno una cover di un gruppo sconosciuto, come definiscono i One Man Pierre. Sconosciuto più che altro di nicchia. Di nicchia, diciamo. Di Montese. Ecco, sconosciuto dagli addetti ai lavori, più che altro. Benissimo. Si muovevano nel giro punk, sì, hardcore. E comunque è un bel pezzo. Abbiamo impegnato molto tempo nella intervista telefonica divertentissima con Roberto Fricantoni. Abbiamo sentito fino a poco fa per quella che è stata la presentazione disorientata di questo pezzo, che appunto si intitola Disorientato e assente. All'inizio faceva finta di non conoscere, sì. E poi, no, quando si pensava di aver sbagliato un numero di telefono, aver chiamato un altro artista chissà per cosa e per come, alla fine si è rivelato conoscitore del gruppo One Man Pierre e anche estimatore e collaboratore per l'occasione con lo ringrazio Disorientato e assente. Benissimo, allora il tempo corre e quindi dobbiamo farlo anche noi, perché c'è un altro ospite che ci aspetterà più tardi e non diciamo altro, però intanto all'interno della nostra scaletta musicale potremmo inserire, perché no, un pezzo che riguarda i Timoria. Sì. Allora ce l'ascoltiamo, visto che non abbiamo nient'altro da mettere, no? Allora ce l'ascoltiamo e poi torniamo a parlare insieme. Okay. D'accordo? Benissimo. Ecco qua, e cos'è che abbiamo scelto dei Timoria? Mandami un messaggio. Eccola qua. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Allora, sempre con Blu Radio Sera, ancora con Flavio Bilato, Maurizio Calzavara, abbiamo ospiti in studio i One Man Pierre, ci siamo ascoltati un po' di loro brani live, prima l'intervista con Fricantoni, e ora avevamo ancora qualcosa da dire presentando un pezzo dei Timoria, uno di quelli che piace tanto a One Man Pierre. Certo. Ecco, e allora per commentarlo non c'è niente di meglio che mettersi in contatto telefonico con chi l'aveva cantato in quel periodo con i Timoria, e quindi diamo il benvenuto in trasmissione, seppur in via cavo telefonico, a Sasha Torrisi. Buonasera Sasha. Ciao, buonasera a tutti. Ciao, allora, buonasera Sasha. Come va? Stai suonando? No, perché stai parlando con noi. Ho fatto l'ultimo concerto di questa settimana, domenica, a Treviso, insieme ai Subsonica. All'Home Festival. Sì, esatto. E adesso ho una settimana di pausa, dopo un'estate di fuoco, e riprenderò sabato da Teramo. Ah, benissimo, e quindi un invito ancora per gli amici di Teramo a venirti a vedere, a sentire allora, già. Ma in certo, partenza. No. Allora, parliamo di un artista a tutto campo come Sasha Torrisi, che ricordiamo aver fatto parte dei Timoria dal 1998, e poi ancora come, non solamente come musicista Sasha Torrisi, ma anche come artista pittore, diciamo così. Sì, esatto, con i Timoria sono entrato nella band praticamente alla fine del 97, dopo un percorso decennale dall'86 al 97 con alla voce l'ormai noto popolare Francesco Renga. Sì. E dopo la sua uscita dalla band hanno chiamato me per sostituirlo, e diciamo che sono stato il cantante e chitarrista, ho aggiunto anche una chitarra in più alla band, alla line up della band. Mm-hmm. Fino al 2004, insomma, abbiamo realizzato 4 album e svariati tour in giro per l'Italia e non solo. Poi nel frattempo diciamo che ho sempre portato avanti anche la passione della pittura, del disegno soprattutto, e nel 2000 esattamente, 99-2000, essendo entrato a far parte di quella che allora si chiamava Lodolandia, cioè una factory creata da Marco Lodola. Sì, che è anche il tuo maestro, no, Marco Lodola? È un pittore, sì, esatto, un pittore, scultore di opere luminose, molto pop. E sono entrato, insomma, a far parte di questa factory un po', diciamo, uoroliana. E praticamente mi sono appassionato, diciamo, sempre di più all'arte pop. Ho cercato di trasformare i miei disegni in quadri e dipingerli in versione pop. Da quel periodo ad oggi, diciamo che c'è stato un percorso parallelo alla musica, e ho avuto soprattutto negli ultimi anni tantissimi successi, gratificazioni dal punto di vista pittorico, con mostre in giro per tutto il mondo e quadri venduti in tutto il mondo, per cui un bel, diciamo, una bella soddisfazione. Certo, dai. E tra altre cose leggevo che la Gazzetta di Parma qualche tempo fa intitolava questo: Sasha Torrisi, la pittura pop, ritmica e solare. Beh, sì. Eri d'accordo con questa loro esclamazione? Solare, perché sicuramente i colori sono parecchio accesi, essendo comunque un'arte pop, l'arte popolare nata negli anni 50 negli Stati Uniti, comunque dava un taglio molto, molto acceso, molto luminoso, che doveva un pochino richiamare le pubblicità. Ed era fondamentalmente, diciamo, questo il perno principale, la pubblicità, lo spot pubblicitario, ciò che richiama subito all'occhio, per cui anche i miei quadri sono, diciamo, un incrocio tra la fumettistica, sì, e la grafica pubblicitaria. Ecco, in alcuni frangenti, in alcuni casi dipingo per esempio su un volto femminile, dipingo magari le labbra, le unghie o il trucco, lo faccio color arancione fluorescente, giallo fluorescente, fucsia, sì, insomma con dei colori fluo che risaltano all'occhio e quindi danno un po' l'idea dell'insegna luminosa. Quindi assolutamente colori discreti, non stavo scherzando. No, comunque per vedere anche le tue opere c'è anche una maniera molto semplice, andare anche su YouTube dove sono stati postati alcuni, diciamo, filmatini che riportano, diciamo, le tue opere una per una, in maniera che uno si possa fare una carrellata e anche un'idea di quelle che sono le tue opere. Esatto, e tra le altre alcuni spiccano, lasciami dire, quelle che mi sono piaciute di più in questo caso, Sasha. C'è Lady Smoke, che mi fa impazzire, poi c'è il Joker, poi sì, la Pink Audrey, che è un rifacimento tutto in rosa di Audrey Hepburn, che a quanto sì, pare esatto, ti piaceva. Sì, sì, sì, credo che sia... tutti quanti nell'arte pop retraggono Marilyn Monroe. Io avevo deciso di ritrarre come icone cinematografiche Audrey Hepburn, perché la ritengo più sobria, più sofisticata e raffinata. Poi ovviamente mi è capitato anche di ritrarre Marilyn Monroe proprio ultimamente, perché appunto uno dei miei quadri ha fatto parte di un'esposizione prima a Roma in giugno e poi il 5 di agosto abbiamo inaugurato Miami con altri artisti, con altri pittori importanti, tra i quali Andy Warhol, Mimmo Rotella, eccetera eccetera. Abbiamo, diciamo, fatto questa mostra per omaggiare Marilyn il 50° anniversario della scomparsa. Bene, adesso diciamo perché nella trasmissione dedicata a One Man Pierre abbiamo chiamato Sasha Torrisi per parlarci della sua arte. Bene, allora parola a Pierre di One Man Pierre. Perché dal 22 al 30 di settembre avrò la possibilità di esporre anche i miei di quadri, essendo che comunque anch'io ho questa passione, insieme a quelli di Sasha, allo spazio espositivo Ribalta di Cittadella, e quindi invito tutti quanti a partecipare a questa mostra che si chiamerà un Cent Art Discount, perché vogliamo richiamare appunto il discorso dell'arte pop, però portata ai livelli attuali, quindi a un livello di crisi, forse è anche nobilitare il centesimo che in questo periodo con la crisi diventa importante anche quello, praticamente. Certo. E per entrare ci vorrà il biglietto costerà un centesimo, se avete un euro non accetteremo la vostra entrata. Ci sono anche i ridotti? No, domanda. Vabbè, oltre a questa esperienza espositiva avremo la possibilità di condividere il palco il 22 e il 30, quindi il giorno di inaugurazione e il giorno di chiusura della mostra, per cui prima il 22 a San Pietro in Gù, al Grifone, e il 30 al Ricky's Pub di Abbazia Pisani, per cui condivideremo il palco, prima apriremo noi la pista per Sasha, poi lui avrà il suo spazio di concerto e alla fine ci sarà qualche sorpresa. Interessante, interessante. Allora un'ultima domanda a Sasha prima di salutarlo: come sta proseguendo il progetto Rizofonic? Come stanno andando i pozzi? Il progetto sta andando veramente bene, dopo 6 anni insomma che esiste questo progetto, abbiamo già costruito parecchi pozzi d'acqua in Africa, circa 130, e 13 cisterne per la raccolta d'acqua piovana e addirittura 3 scuole, per cui è bello che Rizofonic, per chi non lo sapesse, è un po' la nazionale del rock italiano. Oltre a me ci sono i Negramaro, c'è un brano l'ha scritto anche Caparezza, c'è Roy Paci, c'è Eva Poles sì. Ci sono i Bastard Sons of Dioniso, c'è Pino Scotto, chi più ne ha più ne mette. Mario Riso, Mario Riso assolutamente, che è l'ideatore del progetto. E comunque siamo 150 artisti, che dipende ovviamente dalle disponibilità di ognuno di noi, parallelamente ai nostri progetti facciamo parte di questo progetto molto importante, che divertendoci e incontrando i numeri uno del rock italiano, quindi riusciamo a stare sul palco e a divertirci facendo rock and roll, e in più facciamo anche del bene, regaliamo un sorriso insomma a chi ha davvero bisogno di pochissimo, però ne ha necessità insomma per sopravvivere. Tra altre cose sta girando un video, mi riferisco sempre a YouTube che ultimamente è una fonte per vedere maggiori informazioni anche legate al video, c'è Nell'acqua di Caparezza con te che gli fai da featuring. Sì, sì, beh, ogni tanto ecco, esistono anche questo tipo di collaborazioni, nel senso che Caparezza per esempio è venuto a Parma a suonare il 25 di aprile, appunto quel video lì ne è la testimonianza. E durante il concerto ha improvvisato Nell'acqua, che è appunto il brano che lui ha scritto e cantato all'interno del disco di Rizzofonic. E mi ha chiamato sul palco, mi aveva chiamato prima al telefono per sapere se ero a Parma, se ero disponibile, così ha detto, se c'eri tra il pubblico va, se ti va vieni a farla, sì. Allora sono salito sul palco e l'abbiamo fatta insieme, insomma è bello anche per questo, perché comunque sì. In questo contesto non esistono competizioni artistiche, non esiste nulla di tutto questo, è proprio un progetto molto umanitario, molto umano, quindi scusa il gioco di parole, ma sì, è veramente sì. dal punto di vista umano è incredibilmente forte. Sono nate tantissime amicizie nuove, sono nate anche collaborazioni tra i vari artisti, per cui meglio di così. E in più, come dicevo prima, lo scopo finale è quello di costruire pozzi d'acqua per rendere la vita meno difficile a certe popolazioni, per cui tutto è tutto di buono questo. Benissimo, allora ringraziamo Sasha Torrisi. Grazie Sasha. Ricordiamo che ancora l'appuntamento con Sasha e Woman Pierre dal 22 al 30 settembre allo sì? Spazio Ribalta di Cittadella. Perfetto, ci saremo. Allora, noi purtroppo il tempo come sempre fugge e corre più veloce riguardo alla sì. mostra vorrei ringraziare comunque anche prego. Giulio Sogliacchi e Francesco Scalcobonaldo collaborano assolutamente in maniera importantissima a questo evento benissimo, che sembra anche molto molto importante, e anche ci sarà anche qualche critico d'arte che arriverà per l'occasione. Non lo so. Avete mandato qualche invito? Non so, Sgarbi, l'avete sentito? Beh, no. Ma magari la prossima volta. La prossima volta, va bene, dai. Allora, niente, dobbiamo salutarci, Woman Pierre. Siamo stati in bellissima e buonissima compagnia. Io ringrazio te, ringrazio Maurizio e ringrazio anche Alberto con cui ho sì, dimenticavamo in mezzo ai mille nomi che abbiamo fatto. Alberto, scusaci, però in ultima, ma non ultimo, diciamo Alberto Prisco, che è il nostro gancio artistico per avere queste belle band in diretta dai nostri studi. Ringrazio voi per aver appunto dato questo spazio per presentare il pezzo con Freak, per presentare la mostra e soprattutto per far conoscere la nostra musica, e grazie ancora insomma. Bene, però non andate via adesso, mi raccomando. Allora, io e Maurizio salutiamo, però so che ci proponete qualcos'altro che è conosciuto comunque in questo caso, perché stiamo parlando di Donovan. Ah, ok. E quindi Donovan, adesso avete visto che Maurizio improvvisamente si è alzato di qualche centimetro in adulazione di sì, Donovan. È la nostra versione di Mellow Yellow, e appunto rifatta alla maniera cantabaristica di Woman Pierre. Benissimo, allora ascoltiamo questa loro maniera di cantare da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara. È davvero tutto, buon proseguimento di serata. Dopo di noi c'è l'hard rock heavy metal del nostro amico Renato Ferro, quindi non mollate le nostre frequenze. L'ultima canzone di Woman Pierre, ancora grazie ragazzi, un buon rientro nella vostra cittadella. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Bene, pensavamo che fosse da disco. No, è tutto dal vivo. Guardando il volto disfatto, reagisco senza un perché. Il fumo passivo mi stuzzica le vene di respiro, più tempo non è. Col tango dei miei nervi, col tango dei miei nervi, il tango dei miei nervi. La falce ha rotto la calma, la calce la consumerà. La notte che arriva non bussa alle porte, ma è pronta e balla di già. Col tango dei miei nervi, col tango dei miei nervi, il tango dei miei nervi. L'ansia che percuote le ossa, la morte più paura non fa. La clessidra rallenta, mi guarda più attenta, batte il tempo che va. Col tango dei miei nervi, il tango dei miei nervi, col tango dei miei nervi. Col tango dei miei nervi, il tango dei miei nervi, col tango dei miei nervi.